известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Sta già diventando un culto naturalmente online, in rete, questo estratto, questo brano video e questo audio anche che ascoltate in sottofondo, tratto, registrato due giorni prima della morte di Michael Jackson allo Staples Center di Los Angeles, dove si tenevano le prove del tour che non ci sarà mai, no? come l'isola che non c'è, a cui spesso e volentieri lui faceva riferimento nell'incarnazione di Peter Pan. Non ci sarà neanche il suo tour, però la notizia è che Jackson stava molto meglio di quanto poi si è scritto e letto successivamente. Sarà il trucco, sarà l'abitudine, sarà l'emozione, no? Quella sensazione elettrizzante di tornare sul palcoscenico, ma di fatto quello che si vede in azione, insomma, è ancora un protagonista assoluto, anche se naturalmente a circondarlo poi c'era una macchina spettacolare e formidabile, come formidabile è stata questa settimana di occupazione quasi militare, naturalmente suo malgrado, di Michael Jackson, delle cronache di tutto il mondo. È ridiventato protagonista assoluto, chi l'avrebbe mai detto? Questa può essere in certi casi la forza della morte, e gli ultimi atti ancora vanno visti, bisogna ancora assistere, mentre nel frattempo ci sono queste turbulenze legate alla questione dei quattrini, alla questione del testamento, alla questione dei figli, a questa discesa in campo di Diana Ross, no? Le armate delle vecchie amiche di Michael Jackson, non solo Elizabeth Taylor, anzi di più ancora la Diana, la voce delle Supremes, amica di vecchissima data di Michael Jackson, che nel testamento, un testamento che porta la data del 2002, viene incaricata da quello che era chiamato il re del pop di diventare la custode dei suoi figli, qualora sua madre Catherine Jackson non potesse prendersi cura di loro. E questa crea già una contrapposizione invece con la infermiera, no? Debbie Rowe, la madre dei figli di Michael Jackson, che sta cercando di acquisirne il controllo, perché così facendo poi potrebbe allungare naturalmente le mani e il controllo stesso su molto altro. Nel frattempo sono in preparazione i funerali, le celebrazioni per Michael Jackson, che avranno luogo sempre allo Staples Center, no? Questo è abbastanza surreale, se ci pensate, che peraltro poi è quel tempio della pallacanestro dove giocano di solito i Los Angeles Lakers. In un certo senso è tutto lo show business californiano che si raggruma in un solo momento. Poi ci sono questi 11.000 fans che saranno ammessi a partecipare de viso, a vedere con i propri occhi la cerimonia di stacco, di addio di Michael Jackson. Ci saranno poi i mega schermi, la AEG, la solita società, quella che ci rimette o ci rimetteva 85 milioni di dollari nel caso venisse richiesta la restituzione di tutti i biglietti staccati per i 50 show di Londra, adesso si occupa di organizzare anche come dire, funerali. È tutto molto strano, è tutto molto postmoderno, anche un tantino troppo, se me la passate. Stanno organizzando i suoi funerali e stanno sbigliettando gratuitamente, insomma, però predisponendo anche mega schermi all'esterno, perché pare che sicuramente il flusso internazionale di fans in arrivo a Los Angeles per questo malinconico appuntamento sarà superiore a quella cifra. E naturalmente anche Barack Obama ci mette lo zampino o la coda, del resto è un po' un obbligo, forse anche un po' un vizio presidenziale, ma di fatto il presidente ha fatto sapere che il suo iPod letteralmente trabocca di canzoni di Michael Jackson. L'Associated Press lo ha intervistato e lui ha espresso un parere personale, un personale ricordo di Jackson. Ha detto: penso che Michael sarà ricordato come uno dei più grandi grandi personaggi del mondo dello spettacolo, e questa non è una dichiarazione proprio originalissima. Sono cresciuto con la sua musica, ho ancora le sue canzoni nel mio iPod. Credo che la sua genialità come artista sia stata accompagnata da una vita personale tragica, questa ecco, almeno si è sbilanciato, e in molti modi triste, ma sono contento di vedere che viene ricordato in primo luogo per la grande gioia che ha dato a tanta gente grazie alle sue straordinarie doti di uomo di spettacolo. E questo è l'Obama così in una piccola escursione nella cultura popolare, perché poi c'è un Obama con ben altri grattacapi su un po' tutti i fronti, ma se volessimo cominciare dal fronte interno, il dato di fatto è che negli Stati Uniti è di nuovo disoccupazione record, arrivano cifre brutte, molto peggiori di quanto avevano previsto gli analisti, 500.000 di posti di lavoro in meno. Quasi 500.000, 460.000, una percentuale record da 25 anni a questa parte, pari al 9,5% della popolazione attiva, no? Ne parlavamo negli scorsi giorni con diversi ospiti. Ormai il fantasma del double digit, della doppia cifra di disoccupazione, una prospettiva inquietante, del tutto imprevedibile nell'America solo di un paio di anni fa. Ecco qua nel frattempo la mamma, ecco Debbie Rowe, che sfila sulle televisioni americane, ridiventata una protagonista, la mamma dei figli di Michael Jackson. Vi dicevo, insomma, questa doppia cifra di disoccupazione è dietro l'angolo. Barack Obama non ha nascosto il proprio sconcerto, anche la propria preoccupazione, ha detto: siamo nella peggiore recessione dai tempi della Grande Depressione, ci sono voluti anni per finirci dentro, che tra parentesi significa, per favore non datemi troppe colpe, ci vorranno ancora mesi per uscirne, che significa come sottotesto: continuate a darmi fiducia e a seguire le mie indicazioni, sennò i guai potrebbero diventare ancora più grandi. Secondo il presidente c'è qualche segno di stabilizzazione, perché le cifre attuali sulla disoccupazione sarebbero meno devastanti di quelle dei periodi appena precedenti, dovrebbero segnalare che la recessione sta rallentando, ma insomma poi di fatto nel maggio 2008 disoccupazione al 7,4 e oggi siamo a un passo dal 10%, con a maggio la perdita di oltre 300.000 posti di lavoro, insomma quasi 1.000.000 o quasi 800.000 posti di lavoro persi in un paio di mesi. Tra l'altro c'è anche un'opinione di Nouriel Roubini, il professore della New York University, che è diventato famoso, no, per aver anticipato un po' come una voce di sventura la crisi creditizia, che poi è cominciata a scoppiare 2 anni fa, e lui dice che dopo la gelata giunta sulla economia statunitense, il rischio secondo lui è che la disoccupazione nella prima economia del mondo, quella americana, arrivi ben oltre il 10%, sicuramente si attesti entro la fine dell'anno all'11%. Sono quindi, continuano a essere dolori per l'amministrazione Obama. E i guai arrivano anche dagli scenari esteri, ci sono i famosi guai nel giardinetto di casa, ne stiamo parlando quotidianamente, c'è questo golpe non golpe, è tutto da decidere, a ciascuno il proprio punto di vista, che comunque è andato in scena nell'Honduras, laddove il presidente ad interim Roberto Micheletti, intervistato anche dal quotidiano La Repubblica, oggi rivendica di essere un presidente legittimo, dice: non c'è stato qui nessun golpe, è stato il tribunale a ordinare all'esercito di prendere quel mascalzone di Zelaya e portarlo fuori del paese. Volete vedere le accuse? Ci sono 18 capi di imputazione contro il vostro eroe democratico. Quali? Non lo so, chiedetelo ai giudici. Poi dice di non sapere neanche niente del ritiro dell'ambasciatore italiano, dice di aver salutato l'ambasciatore Magno qualche giorno fa perché aveva terminato il suo mandato. Noi qui abbiamo controllato, francamente non ci risulta che questo mandato sia terminato. Micheletti un po' se ne frega, dice: io di frattini non so niente, facciano quello che gli pare, io ho fede, prima o poi mi riconosceranno. Di dice di non avere, sempre Micheletti, alcuna obiezione all'ipotesi di presidenziali, elezioni presidenziali anticipate, se questo può aiutare a risolvere la crisi. Ma intanto si avvicina il rientro di Zelaya, almeno l'annunciato rientro di Zelaya. Sarà il momento topico, il momento, lo zenith di questa crisi. Adesso pare che Zelaya, in un carrozzone un po' variopinto, abbia immaginato, stia progettando addirittura di farsi accompagnare da una serie di testimonial di peso, di impatto mondiale, dei premi Nobel addirittura. Ci dovrebbe essere la guatemalteca Rigoberta Menchú, forse si sarebbe offerto di accompagnarlo anche l'ecuadoregno Rafael Correa. Vediamo cosa lo trovano, cosa troveranno o cosa troverebbero ai piedi della scaletta del loro aereo. Tra pochi giorni dovremmo saperlo. Poi c'è naturalmente un'altra gatta da pelare, ancora più grossa per Barack Obama, sempre di politica estera, si chiama Afghanistan, ma ne parliamo tra poco, perché tra poco ospiteremo Andrea Margelletti, il presidente del CESI, che ci darà dei pareri legati alla sua esperienza, anche a un'imminente spedizione che sta per fare da quelle parti. C'è poi un Barack Obama naturalmente in arrivo per il G8, un G8 nel quale intende chiedere agli otto grandi che si riuniranno all'Aquila di aumentare i loro sforzi in aiuto dei paesi poveri. Sono parole contenute in una intervista che ha rilasciato a pochi quotidiani, uno solo italiano, L'Avvenire, di ispirazione cattolica. Dice Obama: come Stati Uniti abbiamo in programma di raddoppiare gli aiuti alle nazioni povere, non solo per interventi immediati ma anche per il futuro. La priorità dell'America al prossimo G8 è proprio indurre gli altri paesi a fare altrettanto. Questo è il volto buono dell'America che Barack Obama sta cercando di far riconoscere al mondo e di far vedere sicuramente ai suoi partner, ai suoi pari grado, in occasione del G8. Ma ci saranno, credo, anche patate ben più bollenti a margine del G8. Come sapete, si annuncia nella prossima rovente settimana anche l'incontro con Benedetto XVI, molto più di un colloquio, viene annunciato con grande calore, grande slancio da entrambe le parti, dal Vaticano e dalla Casa Bianca. Noi saremo lì a seguire questi eventi con il presidente Obama in arrivo e gli altri grandi. Naturalmente l'Italia la prossima settimana diventa il principale palcoscenico della politica internazionale. Lonely boy, your shadow is so sad, and your empty eyes like two sunsets upon the sky. If I talk about you, I do not dislike you, all I want to do is cry. All I really want to do is cry. Should I disregard you? All I try to do is just in vain. All I try to do is just in vain. Sempre nell'intervista all'Avvenire, Barack Obama dice, assicura, parlando dei rapporti con l'episcopato statunitense, assicura che difenderà sempre con forza il diritto dei vescovi di criticarmi, anche con toni appassionati. Vorrei ospitarli alla Casa Bianca per parlare dei temi che ci uniscono e che ci dividono. La sensazione è quella di una grande manovra di riavvicinamento, almeno di confronto diretto, dopo una partenza che magari tra Chiesa e Casa Bianca, tra Chiesa di Roma e Casa Bianca, non era stata fatta con il piede giusto. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Insomma, c'ha da fare il nostro presidente 44, ne ha di gatte da pelare, di nazionali, stranieri, internazionali. Tutto si può dire di Obama, tranne che non abbia impegni. Un bel programma. Non abbia un'agenda fittissima, perché insomma io avrei cose da dire, per esempio, sulla Cina, che si sta preparando molto bene, molto attentamente a questo G8, al quale la Cina, ricordo, è semplicemente invitata, non ha come dire status di membro permanente di questa assemblea, anche se poi c'è un dibattito in Cina se sia il caso di allargare proprio a Pechino di diritto la permanenza nel G8, che diventerebbe così un G9. Ma preferisco parlare di Obama, che prima di arrivare all'Aquila, prima di essere presente in Italia e poi di incontrare anche il Papa, dal 6 all'8 luglio, quindi all'inizio della settimana prossima, sarà a Mosca per un incontro in Russia altrettanto importante con Medvedev, con Putin, insomma con i pezzi da 90 del governo russo. Si preannuncia una Mosca super blindata, addirittura ci sarà lo spazio aereo off limits, saranno pronti dei caccia in caso, insomma speriamo non ce ne sia bisogno naturalmente, a salire in volo. E tra l'altro non si sa ancora quanti soldati, quanti uomini della sicurezza saranno impegnati per vigilare su Obama e il suo codazzo. Posso dare una testimonianza diretta? Sarà un po' per il 4 luglio, che è domani, domani, e tra l'altro lì si organizzano, ma a Villa Taverna, alla residenza, accidenti, più che fermento, è stata, come dire, già creata la consueta cintura di protezione, isolamento e sorveglianza tutto attorno, sempre che poi nel G8 chissà quanti e quando della rappresentanza americana staranno a Roma. Su questo poi c'è grande riserva. Nei prossimi giorni sapremo anche dettagli in più. Certo. Comunque le agenzie si sono divertite a fare un raffronto perché nel recentissimo festival di Eurovision, la finale che si è svolta a Mosca, sono stati impegnati 20.000 soldati. Allora dicono chissà quanti, forse di più, ne saranno soldati impegnati per Obama. Non per, lo so, per fare cosa? Queste sono le proporzioni russe. Facciamo il pubblico, il pubblico secondo forse, me, le comparse, non lo so. Insomma. Va bene. Io lo chiamo un po' il giochetto del verde, Emiliano, perché a me certe forme, come dire, di adesione un po' troppo facili, ecco, un tantino sui nervi mi danno, poi ciascuno la pensa come vuole. Parli di come nastri, vuole. Magliette, parlo di nastri, magliette, giornali che cambiano colore, giornali, Tibet venduto sulle magliette in allegato alle riviste, insomma, adesso c'è questo tantam su Twitter che annuncerebbe, chi avrebbe mai detto che stavamo qui a parlare del tantam su Twitter, comunque, che annuncerebbe per domani 4 luglio una iniziativa dell'opposizione iraniana, lanciare nel cielo del paese migliaia di palloncini verdi con all'interno un estratto della Costituzione americana. Ci sarebbe poi un kit scaricabile via internet con il testo da scaricare, da infilare nel palloncino verde, e così Ahmadinejad si spaventa e va in esilio. Non lo so qual è la linea. Oppure i palloncini volano e poi arrivano nel cielo di Roma. Temo che non sia questa la strada per risvegliare né il confronto né la consapevolezza. Comunque, se palloncini devono essere, palloncini siano. Io insisto su Obama, ritorno su quello che invece Obama ha detto ai russi, perché nel frattempo ha registrato la prima intervista ai media russi, andrà in onda domani nel secondo canale, non so se perché non gli abbiano dato il primo canale ad Obama. Vabbè, comunque era occupato, è una mia curiosità, dall'Eurocontest. Non ha avuto risposta. Comunque insomma ha avuto parole, direi, di miele per Medvedev, ha detto che l'ha trovato profondo e lungimirante, loro si sono già incontrati al G20 molto bello, sì, di Londra. Su Putin è stato più cauto, ha detto che ha un retaggio della guerra fredda, insomma, che evidentemente non gli fa molto piacere. E poi comunque ha parlato, insomma, di voler dare insieme alla Russia un forte segnale di riduzione dei nostri arsenali, leggo testualmente da quello che poi si sentirà domani sulla TV russa, sarebbe un aiuto a livello internazionale, darebbe alla gente il senso che ci stiamo muovendo verso una nuova era e che vogliamo andare oltre la guerra fredda. Quindi volevo pallino bene, di Obama, insomma, volevo se bene, già i guai sono grossissimi a casa, mi sembra non voglia meglio avere come amica la Russia che, va bene, che altro. Tra poco, tra l'altro, per l'appunto, a proposito di guai, parliamo di Afghanistan. To see the sun go down on Primrose Hill, the Sunday evening sun go down on Primrose Hill. Never could be anything else, never should be anything else, 'cause I like that kind of life, I like that kind of life. Thank you. never thinking too far ahead, hanging high off fog to bed. That's the only kind of life I've led. Just the pictures in your room, smell the roses, sweet perfume. While you're round, you've got to hear this tune. See the sun go down on Primrose Hill. The Sunday evening sun go down on Primrose Hill. Never could be anything else. Never should be anything else. 'Cause I like that kind of life. I like that kind of life. Do you like that kind of life? Do you like that kind of life? Do you like that kind of life? Allora, come annunciato, è arrivato in studio, ci ha raggiunto in studio, lo ringraziamo per questo, Andrea Margelletti, lo ascoltate spesso in questo periodo a Jefferson, è il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Andrea, buon pomeriggio, grazie di essere qui. Grazie a voi per l'ospitalità e l'invito. Ed è in queste ore, in questi giorni, in cui in Afghanistan stanno succedendo cose, e stanno succedendo cose gravi, importanti, di cui tra poco parleremo, è in partenza per l'appunto per l'Afghanistan, sul luogo del delitto. Cosa ti spinge così vicino all'origine della crisi? Beh, non certo, diciamo, l'emergenza immediata, perché questi sono viaggi che si preparano con certo. lungo tempo. Quindi il mio istituto si caratterizza proprio dal fatto che, oltre a un lavoro accademico, ha un'esperienza sul campo, perché certo. è difficile fornire al proprio committente, nel nostro caso è essenzialmente una committenza istituzionale, una valutazione senza avere la più pallida idea. Insomma, dovete andare a vedere. E quindi preferiamo andare a vedere. E quindi per questa ragione passerò una settimana in Afghanistan insieme al dottor Labella, che è l'analista per l'Asia del mio istituto. Vicino allo stanziamento militare italiano? Sì, sì, staremo sostanzialmente con i nostri, proprio perché c'è anche in atto un cambio di approccio italiano certo, molto certo. interessante, quindi è opportuno andarlo a vedere per poi fare un report, diciamo, il più vicino possibile a quello che sono i contesti locali. Oh, nel frattempo è in atto quello che è stato definito il primo passo ufficiale di Obama presidente e guerriero, insomma questa potente, straordinaria offensiva, di cui tra l'altro Andrea Margelletti offre oggi una descrizione, un'analisi in un articolo sul Tempo intitolato America in Afghanistan, combattere per conquistare il consenso, e agenzie approfondite, articoli di ieri di provenienza Afghanistan parlavano di un piano di fare le cose in modo diverso, secondo le parole del comandante di brigata Lawrence D. Nicholson, per la massa di soldati impiegati, per la velocità con cui li dispieghiamo, per il fatto che stiamo andando per restare, perché terremo le posizioni, lavoreremo, costruiremo insieme le condizioni per trasferire le responsabilità della sicurezza alle forze afghane. Questo il comandante Nicholson ieri. Oggi il comandante Nicholson riprende la parola e parla di soldati americani, Marines, poi capiremo anche perché Marines, impegnati in una battaglia infernale nel sud della provincia di Helmand. Quindi in un certo senso, Andrea, parlavi di una politica di cuori e menti, una politica quindi di militarizzazione della zona, ma anche di avvicinamento. Ma questa invece è guerra reale. Hanno trovato qualcosa di diverso da quello che immaginavano? Ma direi proprio no. Il fallimento della coalizione internazionale in questi anni in Afghanistan è stato proprio quello di avere un approccio eccessivamente militare. Noi spesso, come occidentali, dico, abbiamo una visione troppo limitata, cioè pensiamo che il mondo inizi nel momento in cui arrivano i nostri soldati. In realtà in questi paesi c'è un prima e c'è anche un dopo, quindi è determinante rimettere in moto il volano dell'economia, che è certamente un'economia disastrata, è un'economia distrutta, ma è comunque un'economia di sopravvivenza. Quindi se i contingenti militari riescono, arrivando, a riprendere il filo della vivibilità della zona, consentendo alle persone di riniziare anche il baratto, le piccole cose, ecco, questo è il primo successo. Dov'è che si innestano invece con grande capacità, con grande saggezza e intelligenza i guerriglieri? Nel momento in cui noi arriviamo, pensiamo soltanto al lato militare, non ricostruiamo, non creiamo sicurezza se non la nostra, e allora loro dicono, hanno buon gioco a dire ai locali, ma questi, che peraltro sono anche infedeli, detto tra di noi, e che cosa stanno facendo per voi? Nulla. E allora tanto vale mandarli via. Ecco, ma si può ritenere che la popolazione locale, con un arrivo militare così, così corposo, probabilmente anche così visualmente, no, come rappresentazione impressionante, possa, e con gli spari che probabilmente stanno riempendo l'aria in queste ore, possa andare oltre nella comprensione di quello che sta accadendo? Si può intravedere la prospettiva di che cosa significa questo? Credo di no. Credo di no, a meno, perché ci vuole del tempo, certo. E fino adesso noi ne abbiamo buttato via anni così, allegramente. La vera inversione di tendenza sarà nel momento in cui le operazioni principali di combattimento verranno ovviamente a un certo punto a scemare. Non vi sono dubbi sul fatto che vincano gli americani, insomma, certo. Hanno uno strapotere tecnologico, aereo, di addestramento e quant'altro. Quindi a un certo punto forzatamente... Oddio, in Afghanistan si sono viste... Sì, no, grandi impantanamenti. Sì, decisamente, però la caratteristica dei conflitti non tra stati, ma tra Stato e guerriglia, è che sovente lo Stato vince tutte le battaglie perché è meglio, certo, organizzato, e la guerriglia vince spesso le guerre, perché hanno una pazienza che uno Stato a volte non ha. Certo. Quindi se al termine delle operazioni, diciamo, campali, questi scontri terribili che si stanno verificando nella provincia del Mand, poi veramente... ci sarà una presenza forte, una presenza fissa, inizierà un'attività ricostruzione, di riavviamento di quella microeconomia di cui parlavamo prima, allora a questo punto c'è una speranza. Altrimenti quello che bisogna dire è che gli afghani sono, ma al minimo, disillusi. Anni e anni di promesse, e fino adesso hanno visto ruggito il topolino. Ecco, ma non c'è sempre stata un'accusa, una rivendicazione nei confronti degli americani, interpretati in questa chiave di eserciti che invadono e provano a sistemare degli scenari, di essere capaci a combattere ma molto poco capaci a ricostruire, molto poco abili in questa seconda fase, in quella della pacificazione? Non gli è stato più volte rinfacciato? C'è un salto di qualità in atto? E in relazione a questo vorrei anche chiederti Se i comandanti in capo in questo senso contano tanto. Ne abbiamo conosciuti una lunga galleria, dei nomi come Petraeus, come Odierno, adesso arriva questo generale Stanley McChrystal, nei confronti dei quali nell'articolo del Tempo sono spese parole, insomma, molto onorevoli. Allora, per una nazione, per una superpotenza, è semplice vincere la guerra, diventa assai più complesso vincere la pace. Certo. E in questo gli Stati Uniti hanno, per un approccio anche culturale ad alcune tematiche, maggiori difficoltà rispetto per esempio agli europei. Non di meno, prima o poi uno dei propri errori si fa tesoro. Lo stesso approccio che gli americani hanno avuto in Iraq con Petraeus, riconoscendo di avere sbagliato sino a quel momento. L'importante poi, gli errori si commettono purtroppo, e bisogna dire che noi li chiamiamo errori, ma poi ci sono migliaia di civili che muoiono per i nostri errori. Ma a un certo punto è anche onesto ed è un gesto di forza, secondo me, dire abbiamo sbagliato. E riniziare, ripartire a quel momento. In Iraq, certamente gli americani con Petraeus, ma non solo, Petraeus è un militare, è il mandato politico che è stato importante, che gli hanno dato. E le cose sono cambiate. McChrystal è uno molto bravo, McChrystal è quello che è riuscito a scovare e trovare Zarqawi, la primula rossa del terrorismo qaedista in Iraq. È uno che ragiona in termini di popolazione. Ripeto, il premio nella guerra contro la guerriglia non è il terreno, il premio è la gente, il consenso popolare. Ecco, lui queste cose le sa e le frequenta da tempi non sospetti. Quindi il fatto che siano stati impiegati, per esempio, i Marines. Ecco perché i Marines? I Marines perché sono sono fanteria leggera. Come i nostri alpini, poi vengono impiegati anche in altri contesti, non necessariamente di montagna. Certo. La fanteria leggera ha meno bisogno di logistica rispetto alla fanteria corazzata o meccanizzata e quanto altro, quindi, e soprattutto hanno un maggiore approccio, essendo uomo al centro del sistema, con la popolazione, e quindi si sanno muovere meglio rispetto all'esercito americano. Però insomma si va ancora via terra come gli antichi, non so come dire, c'è una. Io sono un convinto sostenitore, che purtroppo sono forse un po' fuori moda, ma che al di là di tutti i gadgets possibili, immaginabili, alla fine quello che conta è lo scarpone, l'uomo e l'arma che l'uomo ha, ovvero il cervello. Spesso noi pensiamo che l'arma sia il missile, il razzo, le armi intelligenti, queste sono straordinarie, le armi intelligenti sono un fatto diabolico, ma gli fanno fare le tabelline, come funziona? se poi il pilota che le lancia non è così avveduto nel dove, cioè, e come impiegarlo, cioè. Esattamente, se l'uomo utilizza il cervello, spesso i risultati, o quasi sempre i risultati, si ottengono. Continuiamo tra poco a parlare con Andrea Margelletti dopo un po' di musica e le notizie del traffico. Ancora qualche momento per condurre questo approfondimento sui fatti, le offensive, le manovre in corso in Afghanistan ad opera di un importante contingente americano. Lo stiamo facendo con il contributo di Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, e parecchi ascoltatori, Andrea, ci scrivono cercando di collocare, no, questo fatto, questa notizia, questo evento sullo sfondo della Casa Bianca. Allora anche Obama diventa il presidente con il mitra, o comunque qual è il cambiamento, se ce n'è uno, di gestione di uno scenario così complicato come l'Afghanistan, da una Casa Bianca alla successiva. Noti una strategia diversa? Si può accreditare a Obama una visione differenziata, come lungamente peraltro l'ha rivendicata nel corso della campagna elettorale? Allora, diciamo innanzitutto che per tradizione, perlomeno di quella dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, i presidenti statunitensi più inclini all'impiego delle armi sono stati democratici e non i repubblicani. Certo, certo. Detto questo, un presidente degli Stati Uniti, al di là del fatto che sia democratico o repubblicano, vuole non solo mantenere ma aumentare la potere americano, quindi il fatto che gli americani rimangano l'unica superpotenza globale e lo siano sempre di più. Può cambiare, diciamo, l'approccio a questa tematica, la modalità con la quale vuoi realizzarlo, ma non vi è dubbio che l'interesse nazionale sia sempre quello. Immaginare il presidente Barack Obama come una sorta di San Francesco che infatti, si realizza... Quello che si legge tra le righe di questi ascoltatori è il ma si poteva non fare, cioè era proprio necessario farlo con il fardello di morti, di distruzione che un'operazione di questo genere comporta. È parte di una sana politica internazionale? No, il problema è che se tu vuoi ottenere un Afghanistan meno instabile di quello che è, ma soprattutto vuoi cercare di dare una mano al Pakistan, è necessario limitare la capacità di influenza e di forza dei gruppi della guerriglia, non solo talebana. E detto questo, le alternative sono due: o chiedi cortesemente ai talebani di arrendersi e di andarsene, e non mi pare che siano di questo, no, con questo spirito, o altrimenti ti comporti di conseguenza. Quindi la continuità di una dottrina di intervento, per quanto poi cerchi di spiegare in certi scenari, è necessaria, perché è la continuità di una politica di una nazione che è una superpotenza. Ripeto, può cambiare a seconda dell'amministrazione un approccio, una strategia, il voler ottenere un obiettivo a un costo piuttosto che un altro, ma una superpotenza che piaccia o meno si comporta come una superpotenza. Mi sembra di dedurre quindi dalle tue parole, per chiudere l'argomento, un giudizio di congruità riguardo alla operazione, a questa politica di cuori e menti, no, di cui poi parli in apertura al prezzo. Sì, perché se il risultato sarà quello di rendere più sicuri gli afghani, qua ricordiamoci, con tutto il dolore e lo sconforto che possa essere causato dalla perdita di un solo caduto della coalizione internazionale, ma occorre dare il massimo rispetto per i padroni di casa che muoiono a decine e centinaia. Quindi il premio non è la vittoria dell'Occidente, del sistema occidentale, il premio è consegnare ai padroni di casa, per poi andarsene, un paese che non sia in condizioni di disperazione. Questo va detto, cioè, noi dobbiamo ricordare che il punto non è la salvaguardia degli interessi occidentali, il punto è il mantenimento della stabilità in un'area per i padroni di casa e dare dignità e lavoro alla gente che vive in quei paesi. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, due minuti, ma se pensiamo al G8 della prossima settimana, se pensiamo a un Obama che arriva anche comunque con questo fardello, comunque con questo carico di ruolo nella politica internazionale con sé all'incontro con gli altri leader, cosa lo aspetta? Pacche sulle spalle, complimenti, cooperazione reale, come verrà accolta questa fase della Casa Bianca? Mi pare che Obama sia persona assolutamente determinata. Lo dimostra il fatto che ha deciso, in una zona di influenza come quella di Helmand, dove stanno gli inglesi ormai da anni, di agire con una certa forza, certo, proprio perché si sono accorti che gli europei certe cose non le possono fare. Arriverà con la consapevolezza di essere un presidente che ha avuto un mandato molto forte dai propri elettori e, conscio di questo, si assumerà le responsabilità delle proprie scelte. Insomma, che ci piacciano meno, sono gli unici americani che ci sono e quindi è impossibile vivere senza di loro. Bene, bene, buon viaggio per l'Afghanistan. Ti posso chiedere un parere spassionato? Ne abbiamo parlato a lungo in apertura su quello che sta accadendo in un angolo invece lontanissimo del mondo, il famoso giardinetto di casa americano, questo strano stato dell'Honduras dove c'è un golpe che non è un golpe e c'è chi dice che lo è e chi non lo è, e un presidente che vuole tornare portandosi dietro Rigoberta Manciù come testimonial del fatto che lui è buono. Ma che cosa succede? Potrebbe esserci un escalation anche in uno scenario di questo genere? Sì, alcune cose devo dire sono prettamente sudamericane. molto americane. E mi fa venire in mente che a volte gli amici o i presunti tali sono più realisti del re stesso. E quindi hanno fatto un golpe, alcuni hanno detto l'abbiamo fatto per la sua sicurezza, insomma non mi è parso tanto contento, e poi si sono trovati sconfessati dagli stessi, certo, Stati Uniti. E quello che sta avvenendo, come posso dire, è una fortunatamente non ci sono vittime, certo, una sorta di golpe bianco, è una saga che ancora da stato bananas, ecco. Che se non fosse una cosa drammatica sarebbe una cosa comica, insomma, speriamo che si ricomponga con le stesse modalità con le quali è iniziato, ovvero il problema di sicurezza non c'è più e puoi tornare, tutto risolto. Grazie a Andrea Margeletti, grazie per questa partecipazione, buon viaggio, magari ci risentiremo a missione compiuta per sapere che cosa con i propri occhi si è visto sul posto, va bene? Con grande piacere. Jefferson 2, l'arte alla svolta, Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia Alessandro Chiappini a Roma e Filippo Aureggi a Milano, la mail jefferson2@radio24.it, su Facebook siamo a redazione Jefferson 2 e a Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, il programma va in replica a mezzanotte, la diretta arriva invece lunedì dopo le 4, come sempre qui su Radio 24, buon weekend e a risentirci.